Letture di Radio 24. Dopo la strage di Natale a Berlino, si è tornati a parlare del pericolo terrorismo islamico in Italia. Il vero problema, scrive Maurizio Tortorella su Panorama, è che in Italia la repressione della jihad non ha ancora una giurisprudenza coerente. Nell'articolo Tortorella racconta poi di un caso esemplare avvenuto qualche anno fa. Nella Puglia Felix di Andria, nel 2008, quattro tunisini di fede islamica predicano in moschea e in un call center e trascinano alla jihad parenti, amici e conoscenti. Le carte di un processo per associazione a delinquere con finalità di terrorismo documentano che i quattro scaricano sui loro PC e diffondono scene di guerra e di attentati terroristici, ma anche istruzioni per confezionare esplosivi, per raggiungere i luoghi di combattimento, per decrittare messaggi cifrati. In rete incitano all'odio contro gli ebrei e sanno perfettamente come e dove ottenere ottimi documenti falsi. A Bari i quattro sono stati assolti in primo grado e condannati in appello. Poi, lo scorso luglio, la Cassazione li ha definitivamente prosciolti e la sentenza è stata depositata pochi giorni fa. Vi si legge che la sola attività di indottrinamento, anche se finalizzata al reclutamento e ai viaggi per la Guerra Santa, non è terrorismo. Perché un'organizzazione abbia finalità terroristica servono atti materiali, e cioè armi, attentati, rapimenti. Tutto il resto non basta, né i documenti falsi, né i video, né l'apologia della jihad. Di certo non è la prima sentenza che fa discutere sul terrorismo islamico. Da anni i tribunali italiani sfornano tesi contraddittorie. A pronunciarsi in questo caso è stata però la Cassazione, che sa perfettamente dell'esistenza dei due nuovi articoli del codice penale varati nel febbraio 2015, i 270 quater e quinquies. Quelle norme, divenute fondamentali nella prevenzione italiana della jihad, sanzionano la propaganda di viaggi in territorio estero a scopo di terrorismo e la condotta di chi fornisce istruzioni sulla preparazione o l'uso di materiali esplosivi per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo. Ovvio che una legge del 2015 non possa applicarsi a reati contestati nel 2008, ma l'assoluzione dei quattro di Andria è così secca da far ipotizzare un diverso sentire dei supremi giudici, i quali peraltro nemmeno citano i due nuovi articoli del codice, neanche per sottolineare la loro inapplicabilità in favor reorum. È un silenzio che, data anche la nettezza della soluzione, pare nascondere una critica. Ora, è vero che il terrorismo va fronteggiato senza scorciatoie, con le sole armi del diritto, ma se l'orientamento culturale della Cassazione dovesse confermarsi, all'Italia resterebbe l'unica arma delle espulsioni, e sarebbe un passo indietro rischioso, perché la posta in gioco non è una disputa tra forcaioli e garantisti, ma quante stragi si possono evitare. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Maurizio Tortorella "Al bivio tra giustizia ed espulsioni", da Panorama del 28 dicembre. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Letture di Radio 24. L'anno che si è appena concluso verrà ricordato soprattutto per il terribile sisma che ha colpito l'Italia centrale. Adriano Celentano, che nel 1968 era stato protagonista del film di Pietro Germi, Serafino, rievoca in un articolo pubblicato sulla Stampa il suo ricordo di Amatrice, dove erano state girate alcune scene del film. Oggi parlare di Amatrice è un colpo al cuore perché non c'è più, come non ci saranno più tanti paesani che allora ci accolsero con grande amore e generosità. facendoci sentire a nostro agio come solo le persone semplici e oneste sanno fare, scrive Celentano, che poi prosegue. Ricordo l'arrivo ad Amatrice per girare Serafino. Mi aspettava Pietro Germi, il regista, e tutta la troupe. Era sera ed ero triste perché improvvisamente mi trovai in un luogo senza le luci sfavillanti della mia città, Milano. Solo le stelle e la luna a illuminare i prati e le case, con le loro luci fievoli come si usa fare nei paesi, e il fuoco dei camini a riscaldare le abitazioni e le persone. Ero triste e volevo tornare a Milano. Germi, che aveva capito cosa mi stava frullando per la testa, mi venne incontro, calmo, con il sigaro in bocca, in silenzio. Mi fissava e mi disse: «Prendiamo una cioccolata calda?» «No, Pietro, voglio tornare a casa», gli risposi, con l'angoscia di quella apparente solitudine che mi attanagliava lo stomaco. «Claudia è incinta e voglio stare con lei». Germi mi guardò e, mentendo, disse: «Anche a me sta capitando la stessa cosa. Rimani fino a domattina. E se ti sentirai ancora così, non ti preoccupare, tornerai a Milano». Rassicurato da tanta saggezza e non sentendomi più costretto a restare, mi rilassai un pochino. All'improvviso arrivò una signora, grassottella e allegra, la padrona di quell'albergo che oggi non c'è più, e mi abbracciò, baciandomi la guancia. «Adriano! Che bello averti qui! Ma lo sai che mio figlio l'ho chiamato come te? Tutti noi di famiglia siamo tuoi fan. Questa è la storia di uno di noi. Non mi sembra vero averti qui. Domani ti preparo una matriciana fantastica. E poi l'abbacchio con le patate al forno. Ti piace?» Mi sorprese il modo di fare di quella famiglia, briosa e vivace. Al mattino, aprendo le finestre, mi trovai di fronte un panorama meraviglioso. Il sole illuminava la mia stanza e tutto intorno a me brillava per la bellezza dei luoghi. Alberi e prati sconfinati e il paese, stupendo. La gente di Amatrice, fantastica. Ospitale, vera, sincera, semplicemente reale. D'incanto scomparve l'angoscia della notte precedente e vissi durante le riprese di Serafino con gli abitanti di Amatrice un periodo sereno e antico che non ho mai dimenticato. Oggi, dopo il disastroso terremoto e le persone che non ci sono più anche a causa di chi non fa nulla per proteggere il proprio popolo e il nostro meraviglioso territorio, mi viene la voglia di diventare presidente del Consiglio. Ma poi, subito dopo, penso che no, non sarei adatto. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Adriano Celentano, «Così mi innamorai di Amatrice», dalla Stampa del 22 dicembre. Tutti conoscono i grandi geni della musica classica, beh, più o meno, mentre esperti e appassionati conoscono anche i musicisti minori. Al di sotto di questi esiste però un esercito di illustri sconosciuti, di geni incompresi che la storia ha lasciato nell'ombra. In un articolo pubblicato sul numero natalizio di BBC Music Magazine, Duncan McCaushan prende in esame alcuni di questi talenti pressoché ignoti al pubblico, come Frank Barnstaple, Theophilus Frescobaldum Humdrum o Melchizedek Potes. Ecco ad esempio cosa scrive McCaushan a proposito di Osip Serafimovich Gulovsky, un musicista russo del XIX secolo, i cui esordi al pianoforte esasperarono i suoi genitori a tal punto che decisero di sbarazzarsi di lui. Nato a Yekaterinburg da un padre ossessionato dagli intrighi bizantini del suo lavoro negli uffici burocratici dello zar e da una madre che passava le giornate distesa sull'ottomana, bevendo kvass e rievocando i giorni dell'invasione napoleonica, Gulovsky superò tutte le tappe del percorso che lo avrebbe portato a diventare uno dei compositori russi più dimenticati di ogni tempo. Trascurato dai genitori, trovò conforto nel pianoforte di famiglia. Quando scoprì il motivo popolare Prekrasny Troika, si mise a suonarlo per ore e ore di fila. I domestici si lamentavano, i vicini di casa si lamentavano e perfino il personale di servizio occasionale si lamentava. Arrivati al limite della disperazione, i suoi genitori presero una decisione drastica. Si liberarono del pianoforte e del piccolo Osip in un colpo solo. Entrambi vennero affidati alla duchessa Klatkinsky, una lontana parente. La duchessa viveva sotto l'incantesimo del suo insegnante di piano, il magnetico ma tirannico Dologub. I suoi metodi eccentrici e inflessibili erano piuttosto insoliti. Per rafforzare le mani, faceva suonare l'arte della fuga di Bach con delle fette di pancetta avvolte attorno alle dita, mentre per imparare ad avere una postura rigida, faceva eseguire la sonata Waldstein di Beethoven con un samovar tenuto in bilico sulla testa. Il giovane Gulowski faceva grandi progressi con le composizioni. Studi, mazurche, valzer e ballate continuavano ad uscire dalla sua penna, tutti di un'impressionante mediocrità, fu il drastico commento di Klinka. Successivamente, dopo un incontro con Balakirev nel 1866, si cimentò con brani per orchestra, che mostravano una propensione per i ritmi inesistenti, per i piatti e per alcune malinconiche farneticazioni nasali del corno inglese. I sentimenti patriottici che permeavano le composizioni di Balakirev influenzarono gran parte dell'opera di Gulowski, soprattutto in brani come il preludio scritto sulle rive del meraviglioso fiume Iset che scorre attraverso la magnifica città di Ekaterinenburg, o il poema sinfonico La grandezza della steppa riempie il cuore di incredibili desideri. Ma i suoi colleghi furono aspri nei giudizi. Spazzatura. Più che composizioni, si tratta di compostaggio, sentenziò Borodin. Le cose si misero male nell'inverno del 1869, quando, dopo aver bevuto pesantemente in una taverna di San Pietroburgo, Gulowski fu coinvolto in una rissa con un gruppo di compositori noti come i Cinque. Balakirev fu colpito da una balalaica, Borodin si prese un cazzotto in bocca, Cui un calcio nello stinco, Rimsky-Korsakov venne morso al gomito e Mussorgsky fu quasi strozzato. Gulowski scappò, ma mentre cercava riparo nelle foreste che si trovavano nella parte orientale della città, la sua carrozza venne assalita da un branco di lupi. Il giorno successivo i suoi resti furono trovati da un guardiacaccia della duchessa. Nella mano destra, che era stata tranciata, teneva ancora in mano degli spartiti con una serie di variazioni sul motivo Prekrasny Troika. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Duncan McCaushan, Incredibili talenti, dallo speciale natalizio del mensile BBC Music Magazine. Non va accolta con scetticismo la notizia diffusa da Billboard, secondo cui il CD più venduto nel 2016 negli Stati Uniti non è di Lady Gaga, ma di Mozart. Certo, ha vinto perché Mozart 225, The New Complete Edition, cofanetto di 200 CD, che contiene ogni sua composizione, ha venduto 6.250 copie, contando i singoli CD, 1.250.000 copie. Vale il 6.250 o gli 1,25 milioni? Il pubblico della classica è affezionato ai CD, mentre la maggior parte del mercato si è trasferita sul digitale, ma di sicuro ha del miracoloso che un musicista morto in povertà nel 1791 giochi ancora alla pari con star dei nostri giorni. E se proprio vogliamo fare i conti, possiamo ragionare su quante leggende del pop e del rap di oggi verranno ascoltate, amate, citate tra un quarto di millennio, come succede a Mozart. Nel 2006, anno mozartiano, un sommo direttore come Esa-Pekka Salonen non eseguì dei concerti speciali a lui dedicati. Spiegò: ogni anno è mozartiano. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Matteo Persivale «Se i CD di Mozart battono le pop star», dal Corriere della Sera del 14 dicembre. Nel settembre del 2012, una professoressa di Harvard, Karen King, ottenne una grande attenzione mediatica organizzando una conferenza stampa a pochi passi da San Pietro, nella quale la studiosa annunciava il ritrovamento di un papiro che recava la scritta «Gesù disse loro, mia moglie». Subito i giornali, senza verificare se le analisi che avevano portato alla scoperta avessero un minimo di credibilità scientifica, iniziarono a parlare del Vangelo della moglie di Gesù. Non ci volle molto per arrivare a capire che si trattava di un clamoroso falso. Il papiro apparteneva a un certo Walter Fritz, un personaggio il cui nome in passato era stato associato alla sparizione di reperti dal Museo della Stasi di Berlino e alla produzione e commercializzazione di finte icone e finti frammenti di papiro. Non stupisce che all'epoca i giornali e le TV di tutto il mondo avessero diffuso la notizia senza nemmeno verificarla. Troppo ghiotta la possibilità di gettare un po' di fango sulla Chiesa cattolica. Più difficile invece accettare l'ingenuità della prestigiosa ricercatrice di Harvard. Come ha scritto nei giorni scorsi Gabriele Pellizzari su Avvenire, il rigore del metodo è, per uno studioso, il contenuto della propria etica professionale. La prudenza in questo caso, continua Pellizzari, non è un saggio consiglio dell'età, ma un presupposto strutturale ineludibile. Cavalcare lo scandalo, magari organizzando una conferenza stampa dal contenuto opaco, significa porre il proprio focus non nello studio critico, ma nell'esito, negli effetti che questo studio può suscitare. Se poi questi effetti sono preventivamente connotati, ciò implica una ricerca tendenziosa, tendente ad altro rispetto alla descrizione terza, per quanto possibile, della storia e dei suoi fenomeni. Delegare l'analisi storiografica di un documento ai soliti formidabili esami di laboratorio è errore da principianti. L'approccio critico è certo supportato da tali rilevazioni quantitative, ma non è sostituibile da queste. È possibile comprare frammenti di autentici antichi papiri e residui incrostati di autentici antichi inchiostri che, assemblati dopodomani, danno un autentico falso moderno. Trascurare programmaticamente, come più volte ribadito dalla King, l'origine di un documento è prassi non del tutto edificante, per così dire. Speriamo che l'Accademia sappia ancora imparare, con coscienza libera e mente chiara. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Gabriele Pellizzari, La moglie di Gesù, storia di un falso, da Avvenire del 20 dicembre.